Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Il caldo sale, la pressione scende, così la fisiologia ha le sue leggi. Buongiorno da Nicoletta. 800 24 00 24, vi ricordo subito il nostro numero verde, perché vorrei sapere se voi siete tra coloro che ci guadagnano o invece dovete fare i conti con stanchezza, testa vuota, mancanza di forze. In studio con me oggi il professor Piero Montorsi, cardiologo del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Professore, buongiorno, bentornato. Grazie mille, buongiorno a tutti. Professore, il caldo tira giù non è solo un modo di dire. No, no, è la verità. Succede qualcosa. È la verità, c'è di base questa sensazione di stanchezza, di astenia, di spossatezza, qualche volta per il troppo caldo di mancanza di respiro mentre si cammina, ma il più delle volte è legato proprio alla temperatura e alla pressione, a volte spesso e volentieri bassa. Perché con il caldo capita qualche cosa e la pressione tende a, sia chi ha la pressione assolutamente nei valori normali, chi ce l'ha tendenzialmente altina e chi ce l'ha bassa di natura, a scendere di un po'. Sicuramente. Chi ce l'ha bassissima forse sente meno la differenza, chi invece ce l'ha un qualche cosina sempre nella normalità un po' più alto si accorge per il caldo che comunque vasodilata, e poi anche perché d'estate si suda di più, si perdono un pochino più liquidi che magari non si reintegrano, e questo favorisce un po' di pressione bassa. Insomma, c'è chi ci guadagna e c'è chi invece un po' ci perde, deve fare i conti con i sintomi che abbiamo anticipato: stanchezza, testa vuota, mancanza di forze, siamo un po' più svenevoli. Sento sempre delle gran formiche nelle gambe, nei piedi. Insomma, dottore mio, sono proprio una tiella vecchia. Sarà un fatto di circolazione, signora. Lo credo anch'io, veramente ho avuto sempre la pressione bassa. Sì? Quant'è? Aspetti, sentiamolo. Ai. 120, signora. È un po' bassa, dovrei avere 130, 140. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Meglio bassa che alta, no? Professor Montorsi, sante parole, meglio averla bassa che alta, e questo perché valori alti di pressione possono portare, lo sappiamo, una serie di guai. L'ipertensione è infatti considerata uno dei fattori di rischio più importante per molte malattie, in particolare per le malattie cardiovascolari. Insomma, quel 120 è perfetto. È perfetto. Purtroppo il paziente è molto risentito quando il medico dice che è perfetto, che comunque non è la pressione il problema dei sintomi. Però di fatto è un valore ideale. Noi oggi vogliamo occuparci anche dell'altra metà del cielo, di coloro che, come me, quando dicono al medico di sentirsi stanchi, senza forze, con la testa nel pallone, si sentono dire lei è ipotesa, la pressione bassa vivrà 100 anni. Benissimo, però tutti questi sintomi sono un po' fastidiosi, professor Montorsi. Assolutamente sì, sicuramente non si muore di pressione bassa, ma la qualità della vita può essere veramente infastidita e ridotta, per cui bisogna cercare di mettere in atto delle contromisure, più delle volte semplicissime, ma che spesso ci dimentichiamo, per mantenerla a livelli accettabili in modo da stare abbastanza bene. Ma c'è chi ha una pressione sempre perfetta, nonostante il caldo, una pressione quattro stagioni, professore, ci sono, perché noi ci occupiamo spesso di chi è iperteso, ha la pressione più alta dei valori stabiliti normali, che sono 80-120, e oggi ci occuperemo anche di chi ha la pressione bassa, però c'è anche chi ha la fortuna di avere una pressione sempre uguale, perfetto, non sempre uguale, perché come ci spiegherà nel corso della giornata la pressione si modifica. Assolutamente, quelli che dicono io la pressione sempre perfetta fanno solo un piacere al cardiologo. Bisogna che controllino anche gli altri fattori di rischio che ci sono, perché la pressione non è l'unico fattore di rischio. Ci sono delle situazioni che fanno aumentare però la nostra pressione, ad esempio le arrabbiature. Professor Montorsi. Assolutamente. Arrabbiature, contrattempi, discussioni in casa, in famiglia, discussione per strada, sono tutte queste cose che danno una scarica di adrenalina che alla fin fine, come conseguenza emodinamiche, porta sulla pressione e la frequenza cardiaca. Quindi arrabbiatevi un po' meno. Assolutamente. Poi ci sono anche i camici bianchi, quando si va dal dottor, insomma, è facile, no? Ritornare e dire, ma a casa ce l'avevo normale, poi sono andata dal dottore, e mi sono seduta, e la pressione era salita alle stelle. È possibile? È vero. Di questo valore dobbiamo tenere conto, oppure facciamo finta di niente, è colpa del il medico? No, bisogna tenerne conto, bisogna sentire a casa quali sono i valori e direi in medius tab virtus. Teniamo presente che il medico è comunque una reazione di allarme che il paziente ha, ma come può essere una discussione all'ufficio postale, un'arrabbiatura durante la giornata. Se il risultato è che la pressione ogni volta va su, forse qualche provvedimento va preso. E infatti ci sono anche le emozioni che possono far aumentare la nostra pressione, emozioni forti, emozioni anche però piacevoli, intriganti. Uscirono, si incamminarono verso i giardini di Puncia. Di fronte al lago, alla sua superficie appena mossa da un'onda che svaniva in sottovoce sulla riva, alla ragazza balenò l'idea: fare il bagno. C'era pure una luna quasi piena. Il Cerevelli inorridì. Anche tu, disse Helga, fossi matto. Il tempo di formulare il pensiero e la ragazza aveva raggiunto la riva, s'era tolta camicetta e gonna e, poiché sotto non indossava indumenti di sorta, s'era buttata nel lago completamente nuda. Lidio si sentì ingaggiato. Poteva perdere la sfida, la faccia, lei, le sue tette, quelle chiappe che aveva visto rilucere come due mezze patate novelle? Incontri ravvicinati al lago. In linea con noi abbiamo Andrea Vitali, di cui abbiamo appena ascoltato un estratto dal suo ultimo libro, Galeotto Full Collier. Andrea, ciao. Eccoci, buongiorno. Ciao. Non è l'aria di lago che fa salire la pressione, non è neanche la notte, ma la bella Svizzera. Direi che è una di quelle situazioni in cui uno è contento che la pressione si alzi un po', sono oltre i limiti consentiti del 120-80, da augurarsi che queste cose capitino spesso, cioè, non dico quotidianamente, ma insomma quasi. Professor Montorsi, con lei io mi occuperei non di donne che fanno salire la pressione, ma della pressione delle donne, che ha caratteristiche differenti forse rispetto a quella maschile o no? Ma sì, le donne in genere sono comunque tendenzialmente ipotese nella seconda, terza, quarta decade, prima che arrivi la menopausa, non hanno mai grossi problemi di pressione alta. Poi con l'arrivo della menopausa, purtroppo, la pressione che incomincia a salire deve essere contemplata come un fenomeno quasi fisiologico, e allora bisogna andarci accanto, starci a sorvegliarla e, se necessario, trattarla. Andrea, nel tuo libro Donne Donne, con, sì. Con Giancarlo Vitali, che tu hai scritto anche con Giancarlo Vitali, Sì. Tu fai riferimento a tutta una serie di donne, no? Alle acrobate, alle rifatte, alle veline, sì. Però di donne sotto pressione o di donne che fanno salire la pressione? Ce n'è alcuna anche nell'universo femminino, insomma, che sta sotto il mio sguardo quotidiano e che ho cercato di riassumere in maniera assolutamente incompleta in Donne Donne. Ce n'è qualcuna che fa salire la pressione. C'è questa immagine, ad esempio, nel libro di questa donna che sta fumando la sigaretta, che è un'immagine molto, molto allusiva. Ci sono altre donne, insomma, che la pressione la fanno scendere a chi le guarda o a chi ascolta. Mi vengo a citare, ad esempio, la ben nota a te perlomeno, signora Fiorella. Fantastica, quale, insomma, mi piace molto. Devo dire che è una delle mie preferite. Sì, anche una delle mie, insomma, per questa sua propensione all'invenzione linguistica, cioè a questi neologismi che sono assolutamente divertenti, che però interpretati, tant'è che appunto a volte per comprendere quello che la signora Fiorella Bastità vuole significare, la pressione sale un po' a me. Perché Andrea, la comunicazione avviene in ambulatorio, sì. Non so se il professor Montorsi tra le sue pazienti anche lui conosce magari qualche signora Vastità o simil Vastità, perché nell'ambulatorio del medico succedono, no, delle cose, non è che succedano delle cose strane, ma sentite cose strane, come la signora Vastità che ne tira fuori di strafalcioni. Andrea li racconta spesso. Capita anche a lei. È vero, bisogna uno non ridere, due far finta di niente e discutere dello strafalcione, ma si vede tutti i colori. Beh, noi pazienti magari ogni tanto vi facciamo ridere, speriamo che anche voi medici ogni tanto, no, ci offriate qualche spunto di risate di buon... Andrea, raccontaci l'ultima della signora Vastità. Guarda, io vorrei disobbedire a questa tua richiesta, perché mentre il professor Montorsi, ti saluto perché ricordo di aver assistito qualche sua lezione ai tempi della mia università, me lo mette in mente la storia di una villeggiante che anni fa mi aveva interpellato perché la sua pressione minima era sempre più alta della massima. Ed è una cosa, una convinzione contro la quale io non sono riuscito assolutamente a opporre, diciamo, un ragionamento serio, scientifico, insomma, onesto, tant'è che sono stato felice quando questa signora è ritornata, diciamo, al paese di residenza per rimandare al collega di là questa difficilissima questione medicale. Senti Andrea, io ho pensato che a proposito di pressione, noi dobbiamo sempre ricordare ai nostri amici a casa ogni tanto di misurarla, vero professor Montorsi? Sì, certo. E anche quando andiamo magari dal medico. Andrea, tu la misuri sempre ai tuoi pazienti la pressione? Io consiglio, adesso non so se faccio bene o male, se dico una cosa prova. Alla quale il professor Montorsi poi mi darà, insomma, mi sgriderà, però consiglio sempre di misurarla non spessissimo e in ambulatorio, soprattutto di sfuggire a quei misuratori tipo quelli a polso eccetera, oppure perché spesso, cioè, questo tipo di misurazione domestica crea poi delle ansie ingiustificate, mentre, diciamo, la pressione va misurata in condizioni, diciamo, di tranquillità, da sdraiati, diciamo, da seduti. È ovvio che se uno fa tre piani di scale e poi si misura la pressione e la trova alta, certo. Però da lì a pensare di essere iperteso ci corre un po'. Allora, proprio per ripassare un po' le regole di una buona misurazione della pressione, abbiamo pensato di farvi, l'abbiamo pensato col professor Montorsi e con Laura Vanossi, di farvi questa domanda. Allora, che cosa non bisogna fare prima di misurarsi la pressione? Andrea Vitali ha già detto salire le scale, ma ci sono anche un altro paio di cose che bisognerebbe evitare di fare. E poi la seconda domanda è: meglio il braccio destro, meglio il braccio sinistro o indifferente? 800 24 00 24. Andrea Vitali non sa che alla prima risposta esatta io vorrei far ricevere a casa il libro di Andrea Vitali. Andrea? Penso che avere una funzione rilassante, quindi ipotensiva. Ecco, Galeotto Full Collier, in cui magari in alcuni passaggi la pressione sale. Sì, però fa bene, giusto, no? Che abbia un po' di slancio. Assolutamente, ecco. Si tempra l'apparato cardiovascolare. Quindi Andrea, poi noi ti faremo sapere a chi è arrivato il tuo libro. Benissimo, e buona lettura. Grazie ad Andrea Vitali, buona giornata. Emilio, buongiorno da Biella. Buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Mi racconti? No, ma la mia domanda è, penso, spero sia semplice. Io soffro di ipertensione e quando fa caldo, che la pressione tende a calare, è consigliabile diminuire o annullare la terapia per l'ipertensione? Domanda semplice, professor Montorsi, quella di Emilio. Semplice ma più articolata risposta. In linea di massima non conviene mai sospendere completamente la terapia, come qualcuno vuol fare. Uno. Secondo, si può sempre invece ridurre le dosi dell'antipertensivo, chiedendo al medico, di uno o più antipertensivi a seconda di quanti farmaci uno assume, ma soprattutto cercare di capire se la stanchezza è generale del caldo o è legata veramente a una pressione che è scesa, voglio dire meno di 120 la pressione massima, per esempio. Allora, a questo punto è meglio intervenire con una riduzione guidata dal medico delle medicine. Professore, mi scusi, ma oltre ai valori di minima e di massima, negli apparecchi che noi usiamo per misurare la pressione c'è anche un altro valore, un altro numerino? Che è la frequenza cardiaca, ecco, oppure i battiti, come si dice. Ecco, cosa ci serve e come va a letto? Beh, se è nell'apparecchio vuol dire che ha un suo significato, sì, invece immaginavo. Viene sempre dimenticato da chi lo riporta. È importante perché, per esempio, se c'è una pressione bassa, in genere i battiti automaticamente aumentano un pochino per compensare questa pressione, e viceversa nel senso opposto. E poi è uno specchio della terapia che uno sta prendendo, è un parametro molto importante, quindi la pressione va sempre riportata a massima, minima, minima e i battiti. Almeno così il medico, quando con questi dati in mano, può ragionare in maniera migliore. A che numero sarebbe bello avvicinarsi di battiti? Ma i battiti sono molto variabili, da 60 a 100 è il range di normalità, okay, per cui c'è ampio spazio. 800 24 00 24, se siete sotto pressione, se volete parlarne con noi. Ma professor Montorsi, se decidessimo di misurarci la pressione, c'è un'ora della giornata in cui è preferibile farlo? Al mattino la pressione si dice che ha un ritmo circadiano, cioè da sola, senza farmaci, in tutte le persone cambia durante la giornata. È più alta al mattino, nel momento in cui ci mettiamo in movimento, ci alziamo, andiamo a lavorare, c'è lo stress quotidiano. Un po' più bassa nel pomeriggio, tende a essere invece decisamente più bassa durante il sonno notturno. Per cui al mattino è buono un buono specchio, e anche alla sera per vedere com'è andata durante la giornata. Può cambiare la nostra dieta in estate per aiutarci a tirare un pochino su questa pressione? Soprattutto noi sempre voi raccomandate, ad esempio, di ridurre il sale nella dieta. Ci sono invece tante persone che, soprattutto in questo periodo caldo, quando si sentono la pressione che va giù, amano aggiungere qualche pizzico di sale in più oppure metterlo nell'acqua. Ad esempio, Cristina mi scrive su Facebook: oggi mi sento veramente senza energia e sono a 85-50, vada ad acqua, limone e un pizzico di sale. Professor Montorsi. Sono concetti veri. Teniamo presente che se la pressione è sicuramente bassa, il sale non ha altro che la sua funzione di trattenere un po' di liquidi all'interno dei vasi, per cui fa salire un pochino la pressione, ma non è un rimedio istantaneo, non è uno mette il sale sotto la lingua dopo un quarto d'ora a 120 di pressione. Questa è un piacerebbe. Rimedio cronicamente che va preso sempre, un pochino di sale in più per tenere la pressione un po' più bassa, questo soprattutto in quelli che sono veramente ipotesi da sempre. Vediamo se ci aiuta anche il dottor Luca Avoledo, naturopata, che è in linea con noi. Buongiorno, dottor Avoledo, sì, benvenuto. Buongiorno. Allora, aiutiamo Cristina, ma anche molti altri ascoltatori che ci scrivono, che lamentando appunto questa stanchezza data dalla pressione che va giù. Anche Rita su Facebook mi scriveva: 90-60, vado a lessare le patate, dicono che contengono potassio e io mi sento davvero meglio. Sì, è vero. Beh, la pressione bassa, l'estate rappresenta veramente il colpo di grazia per chi soffre di pressione bassa. Meglio sarebbe, per chi lo sa, optare per un trattamento di tipo preventivo, in qualche modo prepararsi al caldo e all'estate che tanto si sa che deve arrivare. Per fortuna. Per esempio, molto semplicemente, adottando un'alimentazione ricca di alcune sostanze. Il potassio in realtà non è che ha un effetto diretto che aumenta la pressione, quindi chi ha la pressione alta non deve stare attento ad assumere potassio, anzi semmai fa solo bene, ma in particolare per le persone che sudano molto e perdono sali minerali, l'integrazione di potassio, anche semplicemente quella alimentare con i cibi, è un vero e proprio toccasana. Alcuni cibi come le patate sono molto ricche di potassio, in generale tutta la frutta e la verdura, chi più chi meno, è una categoria di alimenti da non trascurare, banane, albicocche. È vero che funziona molto bene l'anguria, mi scrive un ascoltatore al 349-238-6666, che è di seta e tira su. Perfettamente, è proprio una dei cibi, insieme però appunto più in generale alla frutta e alla verdura e anche ad altri alimenti, perché appunto il pesce, i cereali integrali, alcune carni come il pollo sono tutte fonti molto interessanti. Ma quando ci sentiamo, questo è dal punto di vista dell'alimentazione, ma quando ci sentiamo proprio giù, dottor Avoledo, non abbiamo qualche rimedio subito efficace? Sì. Perché il professor Montorsi diceva: non è che io metto un po' di sale sotto la lingua e ciuff, mi sento subito meglio e la pressione sale diventa ottimale. Che cosa si può aggiungere? Esistono dei rimedi naturali, che sono quelli che io conosco meglio, che hanno degli effetti relativamente rapidi, ma il professore ovviamente aveva ragione, non si può sperare di prendere qualcosa e in un secondo o in pochi minuti la pressione si regolarizza. Ecco perché agire in senso preventivo, che vuol dire non mesi prima, magari anche qualche giorno prima, è un sistema assolutamente efficace. Tra i rimedi naturali, uno dei più interessanti dal punto di vista squisitamente sintomatico, è un mix di oli essenziali che si usano anche solo per via esterna, quindi chi non vuole assumere niente è facilitato da questa cosa. L'olio essenziale di Picea mariana, l'abete, e di pino silvestre, puri per via esterna, si mettono 4, 5 o anche 10 gocce complessive di questi due oli in mano e si fa un massaggio nella zona dei surreni, che sono quelle ghiandole sopra i reni, quindi diciamo sostanzialmente a metà schiena, al mattino per una decina di giorni, e questi hanno un'azione di stimolo dell'orto simpatico, che è quella parte del sistema nervoso che sostanzialmente sovrintende alla regolazione della pressione, da una botta proprio a questa parte del sistema nervoso che tira su. Abete pino silvestre. Mentre Maura mi scrive, mi tiro su con la liquirizia, professor Montorsi. Fa bene. Fa bene. La liquirizia fa bene, e anche questa l'effetto non è immediato, ma è nel tempo, perché si mettono si innescono dei meccanismi che alla fine fanno trattenere un pochino di sodio e quindi di acqua nell'interno dei vasi. Attenzione solamente che se diventa un abuso esiste la ipertensione da eccesso di liquirizia. Quindi usare uomo avvisato per non finire dall'altra parte. Sì. Ringraziamo il dottor Avoledo per essere stato con noi. Grazie dottore. E pressione. A voi come sta andando? 800 24 00 24. Approfittatene però per misurarvi ogni tanto la pressione. E alla misurazione della pressione è legato il quizzettone di oggi. Abbiamo chiesto quali sono le cose da non fare prima di misurarsi la pressione, ma abbiamo aggiunto anche braccio destro o braccio sinistro, in quale delle due braccia va misurata la pressione, se esiste una preferenza. 800 24 00 24 per ricevere a casa il libro che ci siamo fatti regalare da Andrea Vitali. Galeotto fu il collier. Abbiamo Claudio da Bergamo e Daniela da Como. Claudio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, grazie per l'opportunità. Volevo dire, io sono un pilota professionale di linea, quindi la nostra salute è un contratto a 6 mesi, come si può immaginare, no? Dal 1981 che faccio la visita medica, tuttavia spesso e volentieri quando ci misurano la pressione non ci dicono i valori. Non sarebbe opportuno regolarmente che ci venissero comunicati questi valori, perché noi, come avevo appena detto, per noi vuol dire un contratto di 6 mesi, no? Perché ogni 6 mesi dovevo fare questa visita medica. Certo. Professor Montorsi, che dice? Ma spero che i valori non li dicano neanche ai passeggeri. No. Non so, in genere qualche volta se il medico non dice il valore perché magari o va tutto bene, oppure il paziente può allegato appunto all'ansia della visita dei valori un pochino più alti, ma se si accorge che è solamente una questione di quel momento, il medico può smorzare la risposta, dire qualche valore un pochino più basso, sa che non corre nessun rischio a dire una piccola bugia. Però Claudio può misurarla anche da solo. Assolutamente sì. Anche perché noi la pressione, se scende, quando scende ci dà qualche avvisaglia, ma se sale di solito noi non ce ne accorgiamo, se non quando sale in modo veramente deciso. È vero? Sì, questo in linea di massima è vero, però dipende proprio dalla grandezza della salita della pressione che determina i sintomi. A volte uno che è sempre stato 120 normoteso, se va a 160 su 90, che sembra non un grosso scarto, però può avere un po' di mal di testa piena, ronzio, malessere, un po' di giramento di testa in posizione in piedi. Quindi è possibile che anche per piccoli, in sostanza non è necessario avere 200 su 100 per dire i disturbi vengono da lì, può essere anche più bassa la pressione. Andiamo a Como. Daniela, buongiorno, benvenuta. Lei, e complimenti per la bellissima trasmissione. Ma grazie. Che seguo tanto, tanto volentieri tutti i giorni. Grazie Daniela. Volevo sapere dal professore se l'alcol assunto ai pasti, cioè il mezzo bicchiere di vino piuttosto che di birra, se, che effetto ha sulla pressione, perché io purtroppo non risento degli effetti negativi di questo caldo, perché sono ipertesa. Quindi volevo sapere se la mia condizione peggiora con l'assunzione di alcol o no. Grazie, professor Montorsi, questo ci interessa, il quesito di Daniela. Devo dire che l'alcol non è annoverato fra i farmaci né ipotensivi, per cui va comunque bevuto, perché si sta bene a tavola, e bere un bicchiere di vino, soprattutto il rosso, è utile, ha attività anche antiossidante. La donna un bicchiere di meno rispetto all'uomo, perché metabolizza l'alcol in maniera un po' differente, ma comunque non è controindicato. Poi voi cardiologi non dite il vino fa buon sangue, naturalmente nella giusta, no? Nella giusta dose. Nella giusta dose. Andiamo a Luigi, che ci chiama da Torino. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie mille. Io avrei questa domanda per il professore. Io lavoro offshore, quindi nelle piattaforme petrolifere, e tutti gli anni siamo costretti a fare delle visite di controllo. Sì. Puntualmente mi fanno problemi perché io ho una pressione leggermente più alta, ho 135-80, però contemporaneamente ho anche battiti cardiaci decisamente bassi, perché faccio più o meno attività sportiva, 52 pulsazioni al minuto. Io dal punto di vista della mia ignoranza dico, vabbè, ho la pressione un po' alta, ma ho i battiti cardiaci decisamente bassi. Quindi dovrebbe essere. Quindi Luigi si promuove. Professor Montorsi è promosso, il battito cardiaco basso. Battito è cardiaco un buon indicatore. Promossissimo, e quindi riflette che lui è ben allenato. Sono molto severi su quella piattaforma, perché 135-80 è una pressione assolutamente normale. Bene, e quindi Luigi. Questo non si deve definire un iperteso. Quando si inizia, i valori ci portano a 140-90. E a quel punto lì che cosa si può fare? A quel punto lì è ovvio che non c'è differenza tra uno che ha 141 e uno che ha 138. Sì. Però quello è il limite dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per definire un'ipertensione. Bisogna controllarla, se uno tende più a stare sopra o sotto questi limiti, e provare a vedere, senza intervenire magari subito con i farmaci, con i rimedi, direi così, non farmacologici, dieta, esercizio fisico, alimentazione corretta, che a volte risolvono o smussano già il problema. Fumo e ipertensione, o fumo e movimenti pressori, come la mettiamo, professor Montorsi? Beh, sicuramente chi fuma non sta bene, aggiunge un fattore di rischio su quello della pressione, e un pochino la nicotina può dare qualche interferenza con la pressione arteriosa, ma soprattutto è che il fumatore di per sé diventa una persona a rischio per il fumo, sostanzialmente. Se in più ci aggiunge la pressione, ecco che il rischio cardiovascolare esponenzialmente sale. Parliamo anche di pressione. Quando noi ci sentiamo sotto pressione, è un modo di dire per raccontare, no? Quando lo stress si fa sentire, uno stress mixato alla fatica, a delle scadenze, insomma, quando sappiamo che tutti sono concentrati sulle nostre performance, e lì ce la giochiamo. Ognuno di voi arriva qui pieno di speranze, desideroso di scendere in campo. Un mese fa alla facoltà di medicina i medici erano i vostri professori. Oggi i medici siete voi. I 7 anni da specializzandi in chirurgia saranno i più belli e i più brutti della vostra vita. Verrete messi sotto pressione. Guardatevi intorno, salutate la concorrenza. 8 di voi passeranno a una specializzazione più facile, 5 di voi non reggeranno la pressione, e a 2 di voi verrà chiesto di andarsene. Questo è il punto di partenza, la vostra arena, la vostra partita. Dipende da voi. E ci sono delle persone che sotto pressione perdono la testa, altre che si concentrano e danno il meglio. Voi a che tipo appartenete? 800 24 00 24. Ricordate che c'è anche il nostro quizzettone, ma soprattutto qua in linea con noi abbiamo il dottor Francesco Aquila, psicologo e psicoterapeuta, esperto del nostro Daily Lab. Buongiorno, dottore. Buongiorno, e buongiorno a tutti gli ascoltatori e gli ospiti. Dottore, ciascuno di noi sa come solitamente reagisce a uno stress particolarmente intenso quando è, come si dice, sotto pressione. C'è chi in questa situazione, di fronte a questa sorta di allarme, reagisce mettendo in campo tutta una serie di competenze, e invece c'è chi molla gli ormeggi e finisce con la testa nel pallone. L'importante, come si dice, è prenderne consapevolezza, anche perché questo può aiutare a prevenire eventuali defiance. Dottor Aquilar. Certamente, certamente la consapevolezza è il primo passo, ma comunque bisogna conoscere bene le proprie cosiddette strategie di coping, cioè il modo nel quale fronteggiamo gli avvenimenti, anche perché possiamo rischiare in qualche modo di fare come la nazionale di calcio, che in un primo momento reagisce bene e ottiene risultati e poi la paga esageratamente la volta dopo. Lei mette un coltello nella piaga, eh? Lo metto sì, con tutta una serie di fattori che poi potremo andare a vedere, anche perché dobbiamo distinguere appunto tra l'eustress, cioè lo stress positivo, quello che ci aiuta a reagire, e il distress, quello che ci avvilisce e ci rende incapaci di avere un'azione adeguata. E tra l'altro dobbiamo anche conoscere quali sono i meccanismi che ci inducono principalmente lo stress, perché si è visto dalle ricerche che in alcune persone sono gli stress correlati al lavoro quelli più formidabilmente acuti, mentre invece per altre persone sono gli stress collegati alla vita romantica. Conoscerci meglio ci aiuta a impedire quella rimuginazione ossessiva e continua sull'unico tema che ovviamente ci porterà a fallire. Dottor Aquilar, allora sono sotto pressione e la pressione insomma non mi giova, perdo la testa, cosa devo fare? Ci sono alcuni esercizi che possono essere fatti e sono presenti e descritti in letteratura in vari libri, perché abbiamo bisogno da un lato di consapevolezza, quindi dobbiamo accorgerci di quali sono i fattori che ci danno lo stress negativo anziché lo stress positivo, e l'altro punto è dobbiamo imparare ad orientare il nostro pensiero deliberatamente. Molti stress sono correlati ai cosiddetti pensieri automatici, quelli che entrano nella nostra mente da soli e si impossessano della nostra attenzione e delle nostre emozioni. Per molte persone questo viene vissuto del tutto passivamente, invece si è scoperto che è possibile imparare ad evitare che il pensiero automatico interferisca con le nostre decisioni. Ma invece per chi dice, bene, io quando sono sotto stress rendo molto, però noi possiamo dire si può fare attenzione a troppa sicurezza, professor dottor Aquilar. Si tratta anche di prendersi troppo sul serio a quel punto, cioè questo rischio, e di perdere tutte le altre cose nella vita, cioè è vero che si può fare sempre meglio, però occorre ricordare che spesso il meglio è nemico del bene, secondo il classico modo di dire italiano, che in questo caso nasconde una grande saggezza. Andrebbe bene cercare di far bene le cose puntando per così dire al 6 in tutte le materie. Così che scapperà anche qualche 7 o qualche 8, ma senza distruggerci la vita e le emozioni per un solo obiettivo, per quanto significativo. In qualche modo prenderci troppo sul serio ci induce poi a fallire, sì, paradossalmente. E poi a risultare neanche tanto simpatici, no? Tra l'altro a risultare neanche tanto simpatici, ma a perdere anche l'obiettivo che abbiamo raggiunto. E quando anche lo raggiungiamo, dopo un po' diventa aria. Gli obiettivi sono importanti finché non li raggiungiamo, ma un po' per tutti, quando li abbiamo raggiunti, è come se non fosse stato così importante. Il trionfo dura 2 minuti, mentre invece la delusione può durare tutta la vita. Insomma, quelli che poi alla fine sotto pressione rendono di più sono quelli che sono usciti meno bene da questo profilo, dottor Aquilar. Certo. E in fondo certo. Noi siamo dalla parte di chi, forse perché lo siamo, che si emoziona e rischia di andare tutta a gambe all'aria. Dottor Aquilar, lei si misura la pressione ogni tanto? Prego? Si misura la pressione ogni tanto? E io? Sì, certo, come no? Come no? Fantastico, certo, non le chiedo neanche i numeri. Grazie, dottor Aquilar, buongiorno. Grazie a voi, buona giornata. Valerio, da Milano? Eccola. Buongiorno. Buongiorno, Valerio. Buongiorno a tutti voi. Senta, io è da un anno che sono diventato iperteso, sempre una minima intorno ai 90-95, la massima 145-150. E sto adesso facendo delle cure che riescono a mantenermi nella norma, però da che prendo questo farmaco avverto a livello di collo, nuca e collo, parte sinistra, come se ci fosse una continua carezza, che pensavo fosse un qualcosa di passeggero. Una carezza? Sì. Cioè lei ha qualcuno una mano che violasse continuamente la cute. Senta, me la prendo anch'io questo, no? Sarebbe, sì, sarebbe però, carino avere qualcuno che ti accarezza. No, professor? Perché dico, cosa può essere, visto che è collegato, i tempi sono questi, io è da poco che uso, che ho questa problematica, e mi sto domandando, ha qualche attinenza? punto di domanda. Sulla carezza noi... Bisogna vedere sul bugiardino se è riportata come effetto collaterale o come effetto benefico. Una mano di donna ti accarezzerà la nuca. Penso ci sarebbe una salita di vendite del prodotto incredibile. Beh, è un rilievo molto specifico. È certo che se c'è una strettissima causa-effetto con il farmaco che mi sembra aver capito che assume per l'ipertensione, si può, non è una cosa di grosso rilievo, si può provare a cambiarlo. Se questa manina poi iniziasse a dare pizzichi, oppure a tirare i capelli, allora lì bisogna proprio buttarla, esatto. Alle ortiche. Carmela, dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Carmela. Mi dicono dalla regia che lei è pronta per rispondere al nostro quizzettone? Sì, spero di indovinare. Allora, Carmela. Allora, la prima domanda. Sì, che cosa non si deve fare? Ci sono diverse cose che non si possono fare, per cui posso dirle, Carmela, che in ogni caso le va bene sul che cosa non si fa, perché non si fanno le scale. Esatto. L'abbiamo già detto, ce l'ha suggerito Andrea Vitali. Di non stare seduti, sdraiati, e praticamente non si deve mangiare. Non si deve mangiare. Secondo me, prima di... Questa è una delle mie... Lei di solito non mangia mai prima di misurarsi la pressione? Beh, mi pare che sia una di quelle cose che non si dovrebbero fare. Non è che me la misuro sempre, quelle volte che vado al dottore ho mangiato da un po', per cui... Perché secondo lei non bisogna mangiare prima di misurarsi la pressione? Ma... è stato un po' intuito fra le varie cose che già avevate detto e che si sanno, il movimento per la stanchezza, stress varie, ma penso che l'organismo si mette in movimento dal momento in cui mangia, il nostro corpo, anche se noi non ci accorgiamo, per cui ci sono dei cambiamenti. Lei dice la cosa. Altre cose da non fare? C'è un vizio che non è un vizio perché è una sorta di dipendenza? Fumare. Brava, credo. Perfetto, ok. Non bisogna fare le scale. E poi che cosa non bisogna bere? Non bisogna bere, oddio, in che senso? Non bisogna bere, ad esempio, una cosa che beviamo spesso al mattino, quando stiamo svegli, che ci tira su. C'era una pubblicità, più lo butti giù, più ti tira su. Ah sì, oddio. Il caffè. Va il bene, caffè, Carmela. Braccio destro, braccio sinistro. Carmela, la stiamo aiutando tantissimo, siamo quasi in chiusura e voglio dare la linea a Gabriele da Lucca. Carmela, se la sta guadagnando questo libro. Braccio destro, braccio sinistro. Braccio sinistro perché appunto è quello del cuore. È quello del cuore. Allora, professor Montorsi, allora, grande aiuto, ma con una buona notizia, che... Carmela porta a casa il libro di Andrea Vitali, Galeotto Fulcoglier, ma è stato un piccolo parto, ma la buona notizia è che non esiste il braccio destro-sinistro, ma possiamo misurare dove vogliamo. Per la par condicio anche il sistema cardiovascolare accetta sia la destra che la sinistra. Siamo assolutamente liberi e questo ci piace. Grazie Carmela. Gabriele, buongiorno da Lucca. Buongiorno e grazie. Eccola lei. Eccoci, allora io stavo ascoltando la trasmissione, quindi sono intervenuto perché mi tocca l'argomento ultimamente. Sì. Io ho sempre avuto la pressione bassissima, bassa, perlomeno bassa sotto la media. Sì. Però ho sempre avuto anche i battiti molto bassi. Io ho fatto sport, sto facendo ancora tuttora un'attività molto aerobica, quindi e mi accorgo di averli, per esempio l'ho misurati poco fa a 48. Però arrivano anche a 40, 42, 43, 44 quando sono molto rilassato. Questo è un problema? Professor Montorsi. No, ma di questi tempi non è mai un problema per 48 di frequenza, ci sono altri problemi che abbiamo noi italiani. Non il 48 di frequenza in un super allenato può essere semplicemente un segno che l'allenamento ha dato il suo effetto e la sua frequenza è molto ben controllata. Perfetto, allora anche Gabriele da Lucca promosso. Professor Montorsi, grazie per essere stato con noi, torni a trovarci presto. Molto grazie a Filippo Aureggi, a Laura Vanossi, io vi aspetto domani, tornate.